adoro voi, siete meravigliosi. In un'Italia putrida, ebbene, voi siete veramente, io quello che ci dico, Thiomos, passione, cuore. Ciao ciao. La Zanzara. Mano alla Lega, non vi dimettete, stiamo uniti, sì. Beh, non so se hai notato, caro Parenzo, ho tolto il nome, il mio nome, dalla sigla della trasmissione. No, ma infatti, questa è una cosa vergognosa che verrà subito denunciata. No, assolutamente non è vergognoso, l'ho fatto io, come, siccome ormai la moda è quella di togliere i nomi dai simboli dei partiti, e meno male che hai migliorato la comunicazione con i telefonini, questo è un inciso naturalmente, e meno male che avete migliorato la comunicazione. Oggi mi hai annunciato, finalmente ho risolto tutti i problemi di comunicazione, ho un nuovo telefono, si sentirà meravigliosamente. Non si sente un cazzo, aspetta un attimo. Ho un nuovo telefono, è vero? Aspetta un attimo. Allora, innanzitutto ho tolto il mio nome dalla sigla, perché va di moda togliere i nomi dai simboli di partito, dunque mi sono un po' adeguato. Mi sono un po' adeguato. E poi ho notato un... no, passiamo subito alle notizie fondamentali. Le notizie fondamentali sono queste. D'Alema dice: non mi ricandido tranne se il partito me lo chiede. Ma insomma, chi glielo dovrebbe chiedere? Il partito riunito in sessione plenaria, il comitato, non so come diavolo si chiama adesso, il segretario, no, si chiamava una volta. Chi glielo dovrebbe chiedere? Questo è il punto. Non mi candido, ma mi candido se il partito me lo chiede. Ma che vuol dire? Se uno decide di non candidarsi, non si candida, non è che dice no, però se il partito me lo chiede mi candido. È una cosa veramente incredibile. Caos Lombardia, non si sa quando saranno le elezioni, prima cosa, non si sa se Formigoni si dimette a breve oppure chissà quando, non si sa come verranno scelti i candidati, primarie oppure schifo. Decideranno, perché che schifo, che vergogna, stai calmo. A me ha colpito una frase nella enorme mole di parole pronunciate dallo stesso Formigoni, diventato improvvisamente molto loquace negli ultimi giorni. Il presidente Formigoni ha detto: Zambetti, da cui tutto nasce, è stato in giunta per pressioni dei vertici del PDL. Cioè, non solo la Minetti è stata candidata senza che lui lo sapesse, perché gliel'ha suggerita Don Verzè. Questa fu la versione di Formigoni, ti ricordi, no? Ma come Zambetti, no? È in giunta, cioè suo assessore, non perché lui l'ha voluto, perché c'erano sospetti su Zambetti, dice lui, ma per pressioni del PDL. Ma questa, cioè lui... In sintesi, non sa mai un cazzo. E questo è meraviglioso. Senti, Formigoni. Non sa di Dacò, non sa di Zambetti. Stai calmo. Sentiamo Formigoni. Ho appunto torchiato il presunto assessore e avrei voluto comunque lasciarlo al di fuori della giunta. Si è mosso dall'interno del partito, dei vertici romani, da qualche vertice romano, una pressione fortissima per garantire che la persona era assolutamente immune. È andata in questo modo, ed è andata in maniera negativissima. Da Roma, lo hanno voluto da Roma, forse si riferisce a Rotondi, ma insomma mi pare difficile che il signor Rotondi possa avere tutto questo potere di candidare Zambetti. È vero che era nella corrente più o meno di Rotondi, però se vogliamo attribuire a Rotondi, cioè, per carità, con tutto il rispetto, troppo potere nell'imporre il nome di Zambetti, forse attraverso Berlusconi, non so, comunque è un'accusa grave, cioè non l'ho scelto io quello accusato di essere in combutta con l'Andrangheta, ma l'hanno scelto i vertici romani del PDL, che appare assurdo, insomma. L'ha nominato a sua insaputa assessore. Poi lotta con Vinci, combatte con Vinci, Baldanzoso, Vinci, domenica, piccola cattiveria, forse perché Formigoni ormai è scaricato anche da Berlusconi? Vinci versus Formigoni, sentiamo. E non c'è niente di male se è d'accordo, se lavora con la regione Lombardia, paga parte di questa vacanza. Non ha pagato non parte ha pagato. Di queste vacanze. Se lei torna a dirlo, si prenderà la querela anche lei. Stia attento. Se lei torna a insinuare... Che non lo dico io. Sì, no. No, no, no, no, non lo dicono i magistrati. No, no, no, non lo dicono i magistrati. È questo che dovete capire voi, signori, della stampa e della televisione. Mai avuto nessun favore e nessun vantaggio. Nessuno vuole fare concerti in TV, Presidente, però dire. Se magari producesse qualche ricevuto saremmo tutti più tranquilli. No, no, come no, ma neanche per idea. Neanche per idea. Ma mi scusi, quando un suo amico le anticipa i soldi di un aereo 1.000, 1.500, 2.000 euro, si fa rilasciare la ricevuta? Ma io non quando sono Presidente della Regione Lombardia, Presidente, soldi... non sono Presidente della Regione Lombardia, non sono un politico. Sì, sì, bravo. È un comiziante da strapazzo, me lo lasci dire, è un comiziante da strapazzo e avrà la sua bella querela, torno a dire, perché lei sta dicendo falsità. Va bene, poi c'è da registrare la questione Veltroni, naturalmente, perché sta agitando le acque nel Partito Democratico, toglie un po' di acqua a Renzi, devo dire, se cadono Veltroni, D'Alema, eccetera, certo gli argomenti di Renzi da qui al 25 novembre diventano un po' più deboli. È stato furbo il signor Veltroni, molto furbo. Aspetta, non mi ricandido, sentiamo. Io non mi ricandiderò alle prossime elezioni politiche, ma rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica. Io continuerò a fare politica, continuerò a impegnarmi in quello in cui ho sempre creduto e che è stato anche il senso della mia vita. Vabbè, dice che farà politica, aveva già deciso prima, che con la rottamazione si perdono anche delle brave persone, dunque non è d'accordo con Renzi, ma abbiamo con noi Daniela Santanchè, buonasera! Buonasera a lei e a tutti! Caro Parenzo, una sorpresa per te che non lo sapevi, t'ho preso... Che bel regalino, sono felice, perché quando c'è Santanchè c'è battaglia, bene, bene! Ma dove sei, a casa, dove sei, Parenzo? Proprio a Comatre, guarda, sono nella mia bellissima dimora, non come quella della Santanchè, ma nella mia bellissima... E ti faccio esclusivo il ciclone Cleopatra che si sta abbattendo su Roma, lo senti? Sono la mia terrazza, lo senti il ciclone? Fammi sentire. Senti, sì, attimo, sento qualcosina, sento qualcosa. Poi. Però pare che non ci sia poi questo grande ciclone Cleopatra. No, è più Cleopatra, signora Santanchè. Aspetta un attimo, senti qua. Senti qui. Questa non la è male. La pioggia che batte sulle Tamerici Salmastre, grande citazione d'Annunziana che dovrebbe piacere alla signora. Ecco, senti, ecco in esclusiva. Ma che esclusiva cosa? Quale esclusiva? Si sente? Ma sì, ma non è che alla radio possiamo sentire la pioggia. Io dico che sei matto. Cioè possiamo sentire la pioggia che cade, una cosa pazzesca. Comunque, ma devo dire è più interessante sentire la pioggia o la Santanchè? No, adesso non esageriamo su questo. Scusi, no, che bisogna dire una cosa, Parenzo. Oddio, come sta Sallusti? Beh, si avvicina al carcere, starà un po' preoccupato, immagino, no? Come sta? Vabbè, dopo ne parliamo, su sempre con sto Sallusti, sei fissato. Non si può pronunciare la parola. Ma ti ho detto che basta, hai già dato su Sallusti. Che cosa bisogna dire di più? Non c'è niente da dire. Poi ti voglio bene e neanche molto simpatico invece. Sì, vabbè, lo so che ti è simpatico alla fine. Cioè... tutti d'accordo che in galera non lo vogliamo, no? Sì, vabbè, sì. Anche se io dico che i giornalisti in galera ci possono anche finire, non è che sono esenti da questa cosa. Se lei è d'accordo che si vada in galera per un'opinione, no, da non per omessa denuncia, per omessa denuncia, ho messo controllo, certamente no. Se uno invece dice delle stronzate gravi su un giornale, scrive delle stronzate gravissime su un giornale, secondo me se provoca dei danni può anche finire in galera. Questo secondo io... me invece deve pagare, perché è giusto, come tutti quelli senza che la galera bisogna pagare, però con una pena, cioè con una pena che deve essere anche, sa perché non sono per la galera? Per il semplice fatto, perché la galera serve per la rieducazione, no? Allora... sbaglia. Allora io non credo che chiunque sia il giornalista messo in galera va rieducato. Perché l'opinione non si può rieducare. Vedremo come andrà a finire. Mi stupisco che lei sia d'accordo. No, ma io sono d'accordo, poi non... Invece io sono d'accordo che voi pagiate. Quanto? Pagiate tanto. Certo, il risarcimento deve essere proporzionato all'offesa. Lei ha dato dello stronzo pure a un giornalista recentemente, magari la querelerà. Il signor Lillo del fatto. Io non ho mai querelato un giornalista. Se mi querela la luce vedremo il tribunale. Sei uno stronzo. Sono certa di vincere. Che battaglia. Quando mettono la cultura del sospetto sono molto di più di stronzi. Mi sono trattenuta perché insomma, cosa avrebbe voluto dire? Una signora, ma molto peggio, però stronzo mi sembrava una bella sintesi. Signor Lillo, hai visto quella cosa, Parenzo, oppure no? Quella battaglia da corale, hai visto o no? L'ho visto, lo rivedo quando sono depresso ogni tanto, quando mi viene la depressione, non guardo, non ascolto più Borghezio, ma ascolto la Sant'Anchieta dello stronzo all'ottimo Lillo, e mi dispiace per Lillo. Vediamo se mi mettono però... in galera perché ho dato dello stronzo a Lillo, poi vero. Ma no, io anche quando lei mi insulta, l'ho messo nel cellulare del telefono. Lorenzo, cellulare però lei squilla. Non mi ha mai querelato, voglio dire. Mai. Ci sta quando, se uno ha una trasmissione come la vostra, che è una trasmissione di grande ascolto e di dubbio successo, però voglio dire, ci può essere un dialogo anche colorito da certo, però nessuno di noi si è mai querelato. E io non credo che Parenzo lei mi voglia in galera se gli dico... Beh, oddio, ma se io la voglio, se, io la vorrei qualche volta, braccia, ma quello non avverrà mai, quello non avverrà mai. Ah, ho capito, mi vuole in galera, però dovremmo avere la stessa cella. E qui si va, come dire, a ricordi di film pazzeschi. Le farei dei pranzettini io che cucino bene, se No, ma io non tolgo, però le terrei pulita la cella sicuramente. Io non tolgo le donne agli amici. Sì, le tolgo le donne agli amici adesso. Ma non è amico tuo, amici, non è amico tuo, mi suo Sallusti, su. Guardi io, com'era quel proverbio, dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io. Esatto, roba del genere, esatto. Scusi, ma voglio capire una cosa. Ma che punto è la costruzione proprio degli onesti? Aspetta, no, fermo un attimo. Briatore dopo. Ma Formigoni, quando si deve dimettere, secondo lei? Me lo dica in 30 secondi che abbiamo la pubblicità. Io sono uno di quelli esponenti del PDL che l'ha chiesto che subito. Dal primo momento avevo detto che se fossi stata di Formigoni mi sarei dimessa. Vedo che oggi abbiamo avuto un'importante riunione qua per la questione della regione Lombardia e mi sembra che siamo tutti quanti d'accordo che in queste ha vinto la linea Santanchè. È meglio ridare la parola agli elettori attraverso... E quando si vota? Su, prima di dicembre, dopo, aprile? Quando si vota subito, non lo so, io credo che bisogna ridare la parola agli elettori, adesso c'è un passaggio tecnico, bisogna vedere... sulla questione elettorale, perché la regione Lombardia è una di quelle regioni che non si era uniformata, ci sono dei cavilli tecnici, ma comunque credo che la decisione importante politica, ma soprattutto di interesse dei lombardi è che si voti subito. Esatto. Con Formigoni non candidato mi sembra impossibile questa cosa, lo può dire chiaro e tondo. Formigoni non sarà candidato. Credo che proprio, ma guardi, siccome io ho molta stima di Formigoni, perché bene ha governato per tanti anni la Lombardia, e non è che adesso possiamo dire che non c'era il modello Lombardia dal punto di vista all'amministrazione, che molto bene fa Formigoni a fare un passo indietro. Cioè deve fare un passo indietro. Entrare in tritacarne mediatico e giuridico, che sarà sicuramente un'escalation, per cui mi sembra... Insomma, io non si deve ricandidare. Errani, che è stato ricchiesto un rinvio a giudizio. Vabbè, lo so, adesso lei dice Errani, Vendola... Ma sono cose diverse, in Lombardia c'è una... Nessuno si dimette di questi. Ci abbiamo Penati, che sta ancora bello seduto lì... Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Siamo qui, inizio di settimana, caro Parenzo. Sono carico, devo dire che sono carico. Stamattina ho fatto 20 km sotto la pioggia. Sono carichissimo, carichissimo. Tu non hai fatto nulla, naturalmente. No, non ho fatto nulla, questo lo dici tu. Ho fatto un sacco di cose e quindi ho dovuto pagare anche delle bollette, perché le pago io di persona e non me le pagano. Anch'io le vado a pagare alla posta, ogni tanto qualcuno mi riconosce e dice: ma scusi, ma signor Cruciani, ma lei viene a pagare le bollette alla posta? Ho fatto perché che c'è di strano? Non è che c'ho... Oddio, potresti mandare la tua domestica bellissima brasiliana, però non lo fai. Non ho nessuna domestica bellissima potresti brasiliana. Potresti mandare la tua domestica, che tra l'altro in modo molto padronale, quando stai con me mi dici mando la serva, che è anche molto brutto. Ma non dire. È però vero tu, ma dici delle cose assurde. Però tu hai questo stile padronale, quindi va bene. Vabbè, questa è calunnia vera e propria. Comunque non ho né una domestica brasiliana, né tratterei mai nessuno in questo modo. Voglio far sentire Albertini, che abbiamo sentito venerdì scorso, l'ex sindaco di Milano, che è sulla bocca di tutti in queste ore. Ma quanti domestici ha la Sant'Anchè, ad esempio? Oddio, quanti domestici ha la Sant'Anchè? Guardi che Parenzo fa delle domande che veramente sono senza senso. La mia aspirazione è fare la casalinga. Se viene a casa mia così vede quello che fa. Vabbè, c'ha un domestico, un domestico fisso ce l'avrà. Sicuro? Una domestica fissa a casa ce l'avrà o no? Lavorando, certamente. Una, due, quanti ne ha? No, no, soltanto una persona. Una persona. Ma c'è anche una cuoca, magari, una cuoca. No, nessuna cuoca. Io comunque devo dire che se avessi un sacco di soldi, la prima cosa che farei è pagare un cuoco. Bellissimo, un cuoco. Appunto. Un cuoco, esatto, sarebbe stupendo. Invece no, perché io amo molto cucinare, quindi il cuoco proprio è una di quelle... Uno di quei lussi che non mi interessa. Beh, io il cuoco, vorrei un cuoco. Comunque, andiamo a sentire sulla io Minetti. Una massaggiatrice. Ma che c'entra la massaggiatrice? Albertini sulla Minetti. Albertini sulla Minetti vorrebbe che partecipasse più che al Consiglio regionale un film di Tinto Brass. Sempre geniale, Albertini. Ma perché ha consigliato alla Minetti di andare da Tinto Brass? Beh, perché mi piacerebbe vedere il film. Ah, le piacerebbe vedere un film? Insomma, un film porno con la Minetti lo vedrebbe, no, lei? Beh, adesso Tinto Brass non è un pornografo, è un film... Però un porno con la Minetti lo vedrebbe volentieri lei? La troverei un'attrice appropriata per un bel film di Tinto Brass. Di casa mia. Albertini piace a lei, Santanchè, dato che piace a tutti in quest'ora, pare pure alla Lega, come possibile candidato. È stato un ottimo sindaco, lo conosco bene, sicuramente una persona capace, quindi... molto... Lo lanci, no? Lo lanci, così si brucia subito. Ma non è che devo lanciarlo io, è già lanciato Albertini, quindi non mi sembra che abbia bisogno di essere lanciato. Cioè, è già lanciato. Trovo invece che una cosa assolutamente importante è che bisogna cambiare la legge elettorale del per non avere più Minetti, dice lei, no? Ma per non avere i listini e non avere più Minetti, la gente, anche se poi sa, qua dovremmo aprire una parentesi, perché preferenze, non c'era solo lei. Zambetti è stato eletto con le preferenze. Sì, no, certo. Senta una cosa, ma lei pure la vede... Il maiale lì, Fiorito, è stato eletto con le preferenze. Sì. Queste preferenze a me fanno un po' paura. Il maiale. Le fanno un po' schifo le preferenze, mi dica la verità. No, non è che mi fanno schifo. A me sì. Inquietano, perché capisce, e poi il voto clientelare, il voto di scambio è molto pericoloso. Lo dica, è contraria alle preferenze. Ma non mi piace neanche avere però le Minetti nelle stime. Però è contrario alle preferenze. Ma perché Fiorito è un maiale, scusi, che è stato semplicemente messo in galera con la carcerazione preventiva? Dov'è finito il garantismo della Santa Chiesa? Infatti io sono contrario. Non parlavo della carcerazione preventiva, che è una cosa incredibile. L'ha definito un maiale? Quanti maiali ci sono? L'ho definito un maiale perché chi ruba i soldi pubblici è peggio di un maiale. Lei lo ha già condannato, porco, quindi? Mi piace. Com'è? Se quello, lo ha già condannato, Fiorito. Se è quello che si dice che lui ha fatto. Poi vede, il problema non è il Fiorito 1, il problema... Ma lei è maiale preventivamente, dice lei, è maiale per quello che fa, per com'è, perché è grosso, è grasso. Troppi soldi nella politica, a me lo dice. Troppi soldi, infatti... la mia battaglia sarà meno 50%, voi lo sapete. Affamare che la bestia. Tutto questo circo costa agli italiani 20 miliardi di euro all'anno. Mi dica la verità. Quindi ci sono troppi soldi. Santa, che io poi sono ci risentiamo. Contro il finanziamento pubblico ai partiti e sono contro tutto quello che Poi ci risentiamo alle 19:15. Però le voglio subito. Lei è contro le preferenze, me lo dica. No, io non sono contro le preferenze. Ho capito. A parte che saremmo forse l'unico paese d'Europa con le preferenze, perché allora è contro le preferenze. Ma soltanto. Beh, con gli ultimi eventi che sono successi, io credo che sarebbe una formula sbagliata. Ma come dimenticare Parenzo, quello che ormai è diventato il video culto della settimana, Mimmo Scilipoti, il nostro Mimmo Scilipoti, che parla in portoghese, brasiliano, una sorta di Oronzo Canà. Lo ricordate Oronzo Canà, no? Oronzo Canà, cioè Lino Banfi nel suo storico film, l'allenatore del pallone, cosa dice? Beh, insomma, sentite. Para analisar as relações Brasil-Itália e o momento econômico europeu, o Diplomacia Entrevista recebe o deputado italiano Domenico Scilipoti, presidente da Associação Parlamentar Itália-Brasil. Este governo não foi eleito para o povo italiano, ele foi colocado lá para resolver alguns assuntos econômicos que a hoje não conseguimos resolver. Avete capito, sì, è una cosa importante, analista politico per la televisione brasiliana, ma in realtà la colpa non è di Scilipoti, ma come diavolo ti viene in mente, televisione brasiliana, di interpretare, di interpellare il signor Scilipoti, perché? Io vado ai matti per queste cose, come ti può venire in mente? Basta un minimo, cioè non è che basterebbe andare un attimo su Google e fare onorevole Mimmo Scilipoti. E poi uno si rende conto, no, non possiamo intervenire. Tra l'altro mi sembra la rete Globo, una cosa di questo tipo, cioè una rete importante. Proseguiamo. Non tenne nada di pregiudizio, anzi al contrario, quando si incontra un brasiliano e che un paio o avò stava, era italiano, stiamo felici di incontrare e stiamo con braccia aperte per ricevere. A moneta è un assunto molto importante per un paese e per un popolo. Quando un popolo perde la sovranità monetaria cominciano molti problemi e questi problemi chi è che paga mais è un popolo. Un popolo, il popolo ragazzi, il brasiliano, un popolo, chi paga è un popolo. Una cosa pazzesca, dai su. Titoli del TG3, torniamo su. Perché vuoi? Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Legge di stabilità potrebbero slittare al 2013, Italia gli sconti fiscali, possibili modifiche anche alle norme sui disabili. All'Italia in rosso si prepara a tagliare altri 1000 posti di lavoro impiegati nel mirino e per altri 3000 finisce la cassa integrazione. Pubblicato il carteggio tra Napolitano e il suo consigliere giuridico D'Ambrosio, mai fatto pressione sui magistrati, il presidente insinuati sospetti su di me. Formigoni in Lombardia al voto entro 90 giorni, la Russa ha mai scaricato il governatore ma il Carroccio insiste, primarie ed elezioni ad aprile. Dibattito nei democratici dopo l'annuncio di Veltroni di non ricandidarsi, D'Alema mi candido solo se me lo chiede il partito, Renzi e altri seguiranno. A 9 mesi dal naufragio della Concordia in cui persero la vita 32 persone a Grosseto, incidente probatorio sulla scatola nera, Schettino in aula. A Casoria, da una discarica in cui sono stati sversati veleni diversi, escono nuvole di fumo tossico. La popolazione denuncia gli amministratori della Campania. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio. Pochi istanti fa il mitico Guido Crosetto su Twitter. Renzi è molto più bravo, lo ammetto. Fa casino per 4 mesi nel Partito Democratico e Veltroni e D'Alema non si candidano. Io 2 anni nel PDL e arriva Briatore. Albertini che imita la Russa sulla Santanchè, sentiamo. Ma ho detto a Danielina, tu lo devi mettere sul palo questo Zambetti che ci sta scassando tutto qua, lo devi aggredire, tu che sei così aggressivo. Ma quello è in carcere, la Russa, scusi, è già in carcere. Ed anche bisogna isolamento perpetuo, gli F-104 tutti, bisogna, ma i mezzi Lince soprattutto, bisogna metterlo in un mezzo Lince e chiuderlo dentro, in Afghanistan deve andare. Ma questa storia di Briatore è vera, signora Santanchè? Assolutamente no. Vabbè, lui ha smentito, come non è vera? Ha voglia di fare politica, beh, su. Insomma, se lei mi crede, io penso che sia abbastanza noto il fatto che sia amiche da moltissimi anni, perché siamo entrambi di Cuneo. Allora, Flavio ha un modo di dire le cose, questo è fare politica quando interviene su certe questioni, ma che lui voglia scendere in politica, tendo ad escluderlo. Tende ad escluderlo, ma avrebbe i voti, secondo lei? Io non so se avrebbe voti, sicuramente credo che ha un suo pubblico e poi sa comunque. Cioè, li prenderebbe i voti? Da un punto quanto di potrebbe valere? Risultati, cioè Flavio Briatore ha vinto i campionati del mondo in Formula 1 con la Benetton, con la Renault. Io non so quanto valga, però le dico da amica, siccome ci parlo tutti i giorni con Flavio, non è vero. Lo escludo il fatto che lui voglia scendere in politica e candidarsi. Ma è vero però che Berlusconi vuole fare questa lista di imprenditori, adesso al di là della questione di Briatore eccetera, questa guarda, lì quello che penso io, perché è che PDL è morto, no? Quindi parlo per quello che è il mio pensiero. Credo che il PDL non ci sia più nel cuore degli italiani, bisogna avere il coraggio di azzerare e ripartire, perché vede, come io avevo detto per prima sulla questione della regione Lombardia, che non si poteva difendere ciò che non è difendibile nel cuore della gente. Ma le pare possibile che Formigoni per salvaguardare Formigoni, il modello, ma le pare possibile che Formigoni scarica sulla responsabilità dell'entrata di Zambetti in giunta Roma. Ma guarda, questo sa, non mi piace e soprattutto non fa bene a Formigoni, perché Formigoni, che ha ben governato la regione Lombardia, si dovrebbe assumere le sue responsabilità presidente. Beh, adesso sembra sembrare lì che era un pupazzo e che faceva quello che gli dicevano gli altri, io trovo che faccia male a lui più che a noi. Appunto, dico, ma il PDL è morto. PDL, possiamo... No, che è fuori da PDL, che c'entra? Ma possiamo certificare che non esiste più, secondo la Santanchè, il PDL? Possiamo certificare che è morto? La questione che non esiste più per la Santanchè, non esiste più per il cuore della gente. Vabbè, è stata un'ottima intuizione del presidente Berlusconi, perché c'era una campagna elettorale da fare e Berlusconi, come sempre, ci aveva visto giusto anche quello. E adesso bisogna trovare un'altra... Ma che senso ha? Ma io dico, io ho detto... Ma le piace un nome di qualcosa? Il nome di un partito? L'altro giorno ho detto una cosa molto importante, ho detto Berlusconi ha fatto un passo indietro perché lui ha detto se si riesce a fare questo rassemblement e mettere insieme tutti coloro che non vogliono consegnare il paese avendole Bersani, io faccio un passo indietro. Ma perché D'Alfano non se l'è filato nessuno? Scusi, io ho detto ma perché D'Alfano in giù tutti tutti coloro che hanno dei ruoli non fanno un passo indietro per questo? Pure Alfano dovrebbe fare un passo indietro? Ma io dico tutti, D'Alfano e coordinatore e coordinamento, perché quel mondo lì, io non dico che è la fine del mondo, ma è finito un mondo e quel mondo è finito. Allora io credo, cioè via anche Alfano dunque, che siccome abbiamo la maggioranza in questo paese come quote elettorali, perché questo rimane un paese di centrodestra, vogliamo unirci, essere insieme per il cambiamento, per innovare, per dare un nuovo tutti quelli che hanno avuto responsabilità non andrebbero ricandidati, secondo lei non si dovrebbero ricandidare? No, questo non l'ho mai detto. Ho detto di fare un passo indietro nelle loro cariche. Ci dovrebbe dimettere Alfano, i coordinatori, tutti immediatamente, a resettare tutto, a rifare come tutto. Come resettare, come ha fatto Berlusconi, no? Berlusconi ha fatto un passo indietro, ma perché non bisogna farlo? Comunque ormai è 9% Berlusconi nei sondaggi, gli ultimi sondaggi, anche la sua popolarità ormai è... Berlusconi per noi rimane il nostro migliore candidato. Ho capito, però i sondaggi sono impietosi, sarà così, però i sondaggi sono impietosi. I sondaggi, se noi continuiamo a difendere ciò che non è difendibile, andiamo ancora peggio nei sondaggi. E che cos'è che non è difendibile? Per esempio? Difendere, voglio dire, adesso volere, per fortuna si è cambiata idea, adesso siamo tutti convinti che Formigoni si dimetterà. Era indifendibile, era indifendibile. Non si può difendere, se continuiamo a difendere queste cose qua andiamo ben sotto a quello che invece è il nostro consenso elettorale, perché comunque, la gente si mette l'anima in queste cose qua, si metta l'anima in pace pure Formigoni, si deve dimettere su, però glielo dica, si deve dimettere subito, ma non glielo devo dire, cincischia, ha detto adesso fa la giunta, i tempi tecnici, ma scusi, ci sono delle modalità, ma che modalità, uno se vuole si dimette, lo annuncia, mi dimetto, io credo perché... che sia un grande passo in avanti, ma perché non annuncia? Perché non l'annuncia le dimissioni? Oggi voglio dire, io c'ero a quella riunione, e che ha detto? Molto ben chiare le parole di Formigoni. Che sia deciso che Formigoni si dimetta è un dato ineluttabile. Adesso bisogna studiare il percorso delle dimissioni. Senta, ma perché non si candida lei in Lombardia? Perché non si candida lei? Ma no, assolutamente. Perché no? Io invece auspico che in Lombardia ci siano le primarie per il candidato. Le primarie? Cioè pure Albertini se vuole. La cosa più bella sarebbe le primarie. Se c'è una coalizione si fanno le primarie di coalizione. Se c'è Albertini c'è Albertini, se c'è la Lega, chi vuole si candida. Ma il sistema più giusto... Anche lei la primaria, no? Lombardia perché no? Lei ormai è insediata in Lombardia, perché non si candida come governatrice della Lombardia? Bello! Ci sta pensando, no? No, non ci penso proprio. Non ci pensa proprio. Però auspico che... Lo so, perché quando bisogna poi stare lì a amministrare un casino. Lo capisco. Beh, sarete una specie di Formigoni in gonnella, va bene? No, perché Formigoni in gonnella? Non esageriamo, sei matto, sei un altro. Cosa hai detto? È elegante. Formigoni in gonnella, dice... Ma guardi, io trovo che se ci sono le primarie si può candidare tutti chi crede. Su D'Alema che dice lei? Guarda, io sul fatto delle tre legislature sono assolutamente d'accordo. Ma secondo lei è una perdita per il paese il fatto che non si ricandida in Parlamento? Ma secondo me nessuno si strappa i capelli. Zanzara Party di questa sera, caro Parenzo. Qual è il menù? Ma ancora è lungo, molto lungo. Innanzitutto tu hai notato che sull'Unità oggi ci sono 700 firme di personalità, dirigenti locali e non del Partito Democratico, che vogliono di nuovo D'Alema in Parlamento. Ma questo mi pare, tu ci ridi, mi pare una cosa assolutamente legittima. Ma sì, assolutamente, cioè, D'Alema, figurati, tranne il fatto che c'è qualcuno che dice l'appello per D'Alema, quella firma non è mia, cioè bisogna pure vedere come sono state raccolte queste firme. Vabbè, fra poco vabbè. Però faremo il numero di telefono cui fare riferimento, perché se volete aderire all'appello D'Alema resta con noi dovete fare un certo numero che dopo vi daremo. Vabbè, e noi lo faremo in diretta. No, ma non ho capito, scusa, che hai detto? No, ma io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto D'Alema anche ieri, fuoco alle polveri, per lui giustamente accetta la sfida, dice se il partito ritiene che ancora ho qualcosa da dare, mi daranno la deroga. Sì, ma chi hanno, gliela deve dare? Chi glielo deve dire? Chi deve decidere? Ma chi? Partiti, ma cosa? Sai, quando? Sono una cosa complessa. Ma quando? Non cosa? Fiera. I partiti, che ne pensi tu e forse anche il nostro amico Renzi, i partiti sono una cosa ancora seria. Vabbè, sei diventato anche a favore, sei diventato anche a favore per il, come dire, no, per, un partito, per la ricandidatura di D'Alema, ho capito. Ernesto da Roma, Ernesto da Roma, fammi sentire. Ma non me ne frega niente di quello che dice, Ernesto da Roma. Bisogna finire un concetto. Sì, ma non me ne frega niente di sentire il tuo concetto sul sui partiti. Ernesto da Roma. Eccomi qua, senta, io ho telefonato perché ho sentito prima la conversazione con la signora Santanichè dove si parlava dei giornalisti che devono andare in galera e devono pagare. Io volevo dire la mia opinione molto in sintesi, a parte che parlare di giornalisti bisogna andarci piano, perché a parte Stefano Vabbè, ma Poli, insomma, che vuole dire lei, Ernesto? Franco, non ho capito. Io voglio dire che i veri giornalisti sono quelli che fanno informazione, non quelli che fanno propaganda. Dovrebbero... attraverso la propaganda si crea manipolazione. Va bene. E quindi questa è una cosa che andrebbe sanzionata almeno con una pena pecuniaria. Va bene. Perché noi assistiamo tutti i giorni ma a ognuno è libero, ognuno è libero di fare giornali, ognuno è libero di fare puttanate enormi. Ognuno è libero, che ognuno si fanno chiamare così, ma sono soltanto degli scribacchini venduti. Va bene. Ognuno è libero di fare propaganda come vuole. Ernesto, grazie. No, Mauro da Milano. No, informazione. Ma non c'entra nulla, uno può fare anche propaganda, naturalmente non mascherandola come giornalismo. Grazie Ernesto. Mauro da Milano, buonasera. Mauro, mi sente? Niente. Io sono Mauro, ma sono di Bologna. Di Bologna, bene, mi scrivono male la città, non è la prima volta. Mauro, dica. Nessun problema, volevo solo ricordarle che D'Alema, che è un dritto, non si candida, dice di non volersi candidare. Tra l'altro non è la prima volta che lo dice, se me lo chiede il partito, eccetera. Tra l'altro dice anche un'altra cosa D'Alema, dice siccome nel PDL probabilmente si ricandidano Dell'Utri, Berlusconi e Cicchitto, allora perché si deve rottamare una intera classe dirigente del Partito Democratico, che non mi sembra proprio un esempio meraviglioso. Mauro, dica. No, dicevo solo che D'Alema è un paraculo, perché adesso che ci sono le primarie, adesso che ci sono le primarie, dice che non si candida per sua volontà, ma solo se il partito. Io leggo in quello che dice solo se vince Bersani le primarie. E quindi credo che sia un modo di difendersi. Poi no, non lo non dice, non dice se vince Bersani, dice se vince il partito. Lei dice tra le righe significa se vince Bersani, eccetera. Ma non lo so, deve essere sempre Bersani a chiedergli, oppure non so chi, ma insomma mi pare tutto assurdo. Se uno dice vorrei ricandidarmi perché ho consenso, si ricandida, punto e basta. Anche perché questo lo mette in una condizione di molta debolezza, mi pare, anche perché D'Alema, se è vero che è un ras del partito e quindi è quello che muove le fila, credo che dovrebbe starsene zitto, tranquillo, vedere le cose che succedono, poi candidarsi o non candidarsi sono affari suoi, che dovrebbe decidere dopo. Invece mettere le mani così avanti, temo molto che sentano la frana del partito. Ma non lo so, questo viene sicuramente dopo l'annuncio di Veltroni dell'altro giorno. Gennaro da Milano, buonasera. Dica. Io volevo fare due osservazioni. Uno, sono del parere favorevole alla carcerazione di Sallustri, così la smette di impancare e di fare l'arrogante. Cioè lei è a favore del carcere per Sallustri, benissimo. Sì, e poi un'altra cosa, volevo dire alla signora Santanchè, anni addietro lei quando stava con Storace politicamente disse che con Berlusconi ci andavano tutte le donne in orizzontale, volevo sapere, ma adesso lei si è messo pure lei in orizzontale? Beh, questa è un'osservazione che ci sta, gliel'abbiamo chiesto 400.000 volte la signora Santanchè, noi gliel'abbiamo chiesto per la 400.001esima volta, dice era un altro periodo politico, Berlusconi ha promesso delle cose che poi non ha fatto, un accordo con Storace, eccetera, eccetera. Poi lei interpreti come vuole, giudichi come vuole. Mauro dalla provincia di Roma, buonasera. Buonasera a voi. Vada, se non parla... No, per l'amor di Dio, era in riferimento al discorso che faceva lei l'altra settimana sull'affamare la bestia. Io penso che oggi non porti niente ad affamare la bestia sul finanziamento dei comuni. Probabilmente va fatto un ragionamento di natura diversa, che è quello di andare a governare questa situazione, perché se passa il messaggio che si deve togliere il finanziamento pubblico ai partiti per ottenere il risultato di un comportamento più giusto, sarebbe come dire che in questo momento storico, dove in Italia c'è un problema dove sono saltati tutti gli schemi, dove sono saltate tutte le regole, per poter far sì che questo venga rimesso sulla giusta strada, ci serva un bel periodo di dittatura. No, non ho capito niente, scusi, caro Mauro, mi spieghi bene. Ecco qua. Che cosa ci vuole, scusi, secondo lei? Ecco. Cosa ci vuole? Secondo me serve chi chiamato sì. Ad individuare delle giuste regole per poter far sì. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Io lo dico subito. Significa che invece di andare a dare dei soldi a monte ai partiti, i soldi possono essere dati sulla base di una rendicontazione dove si vengono effettuati dei controlli incrociati in maniera seria. Sì, ma perché lei si alambicca su queste cose qui? I finanziamenti ai partiti vanno cancellati. Ma questo io la ripeto totalmente. Cancellati, Cruciale, poi si ricomincia e si pensa a un altro sistema. Vanno cancellati, non c'è altro metodo, non è questione di uomini, di persone, di regole, non c'entra nulla. Quando c'è una massa di denaro così consistente, bisogna cancellare tutto. Cancellare. Cruciale, io lo voglio soltanto portare a fare un semplicissimo ragionamento, ma glielo dico. Ho capito il ragionamento, lei mi dirà i controlli incrociati e quello e quell'altro non servono a niente. E poi comunque è una questione di principio. Il finanziamento pubblico ai partiti in maniera così tamblée favorisce coloro che ma hanno. Ma non è vero, queste sono le minchiate che dice. Ma queste sono le minchiate. Ma queste sono le minchiate di chi pensa che tutto debba rimanere ma così com'è. I partiti devono smettere di avere dipendenti. Lo sa quanti dipendenti ha il Partito Democratico a Roma? 200. Ma per dire, ma anche il PDL uguale, 200 dipendenti il Partito Democratico a Roma, 200 persone, ma di che parliamo? Ma come? Ma perché? Allora andiamo a capire. Perché io con sono i d'accordo. Sono d'accordo, debbono essere 50, se io non discuto. Ah no, ma non ci devono essere dipendenti. Perché un partito deve avere dei dipendenti fissi a tempo indeterminato? Perché con i soldi nostri, soprattutto? Se li paghino con i soldi che danno i cittadini. Ma è giusto, significa che dare dei finanziamenti mirati dove tu forse metterai nella condizione chi ti va a governare che non è bisogno per un cazzo di 200 persone dentro una struttura. Io sono politica, di quest'idea ma qui. Magari ne hai bisogno. Aspetta, di 20. Fermo. Allora il punto è questo: uno deve andare dalla gente a fare toc toc toc. Sentite questo rumore? Toc toc toc toc. Ecco. Volete sostenermi perché io faccio questo e quest'altro? Scusami, sì, ti sosteniamo. È un errore. Punto e basta. Con il cuore in mano è un errore. Ma sarà un errore, non mi interessa. Cruciani, guarda che di gente con milioni di euro nelle tasche. Ma quale milioni di euro? E questi ci fanno un culo come un secchio. Ma quando mai? In America è pieno di miliardari che si vogliono candidare, non vanno da nessuna parte. Su. Sì, infatti in America le campagne elettorali vengono gestite semplicemente dai poteri forti. Sì, i poteri forti, sempre famosi poteri, io, i poteri io, forti. Io, Mauro, io la rispetto, ma quali la poteri forti? Me la lascia... L'ha già detto lei, i miliardari eccetera eccetera, ha già detto tutto, i miliardari entrano in politica se si toglie il finanziamento pubblico, ha già detto tutto. Una battuta sui rottamatori me la lascia? Faccia una battuta sui rottamatori. Io la ringrazio, secondo me la questione qua non è una questione di rottamare o meno che questione a livello anagrafico. Ma perché mi deve fare il pippone chi... politico lei? Perché è partito col pippone politico? Lei fa ma pippone come, come i politici? Perché se ne parla? Perché siccome oggi c'è ogni giorno che accendiamo i mezzi di informazione se uno si deve candidare o meno. Io penso che qualcuno di dovere mettesse una bella regola e dicesse dopo due legislature tu non ti candidi. E che ci voleva risolta. E che ci voleva tutto questo ambaradame per dire secondo me dopo due legislature non bisogna di candidarsi. Sintesi estrema. E viva la visione della figlia da vicino. La visione della figlia da vicino. La grande performance di Maurizio Zamparini giovedì alla Zanzara qui su Radio 24. Che ne dica qualche dirigente del Palermo, È tutto testuale. Tutto testuale. Grande Zamparini perché insomma gli è venuto anche spontaneo, no? Via. Ma lei piace la gnocca Zamparini? Sì. Come? Solo che sono monogamo. Come monogamo? Sì, sono da 10 anni con la mia seconda moglie, 11 anni. E io ho solo lei. Quante volte fa l'amore da Parigi? Adesso? 71. 71. Ecco, questo è importante per gli anziani che ci ascoltano. E chiedo scusa per se trovo consenso due volte alla settimana, altrimenti due volte no, la verità. No, giuro, con l'aiuto di pillole. Se trovo consenso due volte alla settimana, altrimenti una almeno. Ma con l'aiuto di chimici però. Pilloline. Da tanti anni. Ma tu non mi hai creduto e l'hai comprato di seconda. Diceva un grande professore, mio amico, dopo la ruota, grandissima persona, dice: "Sai, questa 30 anni fa sì, che non c'erano queste cose. Sì. Se trovo la donna che le piace fiappo, la faccio felice. Se trovo la donna che piace fiappo, sì, molle, fiacco, molle, siamo a Trieste, sì, la faccio felice." Traduci un po', Parenzo, tu che sei di quelle zone, che se trovo la donna che piace piatto, però piatto. No, fiacco, non hai capito niente. Eri lì. Fiacco no, infatti fiacco vuol dire moscio. Sì, moscio sì, vuol sì, dire. Sì, sì. Significa che quello là ce l'aveva sempre moscio e dunque se gli piace se trova. Tecnicamente vuol dire appunto moscio non in stato ottimale. Moscio, ci si può pulire gli occhiali, ecco. Grande battuta di Zamparini. È con noi Marco Baldini. Ciao Marco. Beppe Davide, ciao. Siamo qui. T'ho fatto una sorpresa, Parezzo. Che sorpresa. Mamma che t'ho mia, fatto. Che puntata. No, tu dimmi tu. Adesso tu, maestro, non paragonare Baldini alla Santanchè, dico, ma sei matto? Scusa, Baldini. No, voletemi bene, dai. Chiedo scusa a Baldini, infatti, sì, allora, scusa un attimo, ma vuoi raccontare a Baldini un tuo incontro con il signor Fiorelli in una piscina romana? Perché questo signore, Marco, ha incontrato Fiorelli in una piscina romana, ma non l'ha riconosciuto come al solito perché lui è un po' cieco, Parenzo, c'ha pure gli occhiali. Oltre a essere brutto, anche gli occhiali. Vabbè, racconta questo episodio. No, ma appartiene alla cronaca, perché era luglio, ero alla piscina, non so se si può dire, dell'Hilton Cavalieri. Ma sì, si può dire. Tanto lui va sempre lì, dunque, cioè, non è no, perché poi si arrabbiano tutti, cioè, ecco Parenzo, va alla piscina, che vabbè, sono andato. Vabbè, come al solito, mangi i formaggi. Ma Parenzo mi sembra che ci sia già andato a trovare Corona una volta, no, all'Hilton. Mi sembra che sia bravo. Un uomo di VIP. No? Bravo. Lui mangia formaggi da 100 euro certo, e rotti. So. Beve vino carissimo, tra l'altro pasteggia, mentre in Calabria ne succedono di tutti i colori, pasteggia champagne sulla terrazza dell'Excelsior e poi fa le battaglie per gli operai, le solite stronzate. No, sai, sai tutto. Insomma, l'avevi trovato là Fiorello e che faceva? Sì. Ma insomma, l'ho incontrato con la sua adorabile bambina che stava facendo delle vasche, ero lì e a un certo punto lo fisso, lui mi guarda, io inizio a parlare, dice: "Ma tu sei Parenzo, non ho conosciuto la voce?" E dico: "Ma tu sei Fiorello?" No, all'inizio manco l'avevi riconosciuto, ci ha messo 2 ore prima di riconoscerlo, dilla tu. Tutta la cosa. Fiorello Chigli ha detto. Sì, no, Fiorello. No, peggio ancora, dice: "Io non ti conosco." Poi è uscito, l'ha visto da lontano, si è avvicinato: "Ma tu sei Fiorello, scusa." Una roba. Non è vero, sei Fiorello. Una roba drammatica. Dai ragazzi, siete ascoltati. Un tempo eravamo noi uno dei programmi più ascoltati, ora siete voi, ragazzi. Non è un pippone, eh. Io perlomeno sarò scemo, ma vi ascolto tutte le sere, insomma. Senti, dai. Marco, scusa una cosa, ma tu in radio non ci stai più? Sì. No, per il momento no, sono disoccupato, lo dico ufficialmente, se avete bisogno di qualcuno e faccia l'imbecille, io sono ben disposto. Proposte, cari imprenditori radiofonici che abbiamo incontrato anche a Trieste, fatevi avanti, è molto caro il signor Baldini, come sapete già dalla vostra esperienza. No, io guarda, vengo volentieri, a Radio 24 è una delle poche radio, ci verrei veramente, non ti dico gratis, ma insomma quasi. Fai un appello a Squinzi, Parenzo, fai un appello a signor Squinzi per Baldini. Vai. Una mano al cuore e una al portafoglio. Prenda Baldini e mi alzi il salario. No, che c'entra alzare il salario a te, scusa? Che c'entra il salario a te? Allora, appello al presidente. Io per Baldini sono pronto a incatenarmi. No, vabbè, adesso non esagerare, mamma mia. Però la cosa è molto semplice. Signor Baldini fa un appello, verrei anche gratis. Poi non è vero, naturalmente. No, non è vero, è una minchiata, lo sai. No, però insomma si dice, no, si fa bella figura. Però scusa, Marco, ma no, tu non è che scommetti ancora, per cui in realtà... Cioè, non no, è che basta, ragazzi. Non è che ti... Sì, ogni tanto qualche puntatina si fa. Vabbè, su internet, per sul calcio, ma su. sono un fan del guarda, sul calcio io, sul Corriere dello Sport davo i pronostici, se li davo per gli altri azzeccavo, se li gioco io non arrivano, dunque preferisco fare del bene agli altri, mentre sul poker. Eh sì, online ogni tanto. Poker è un disastro, però. Adinolfi l'hai sfidato, no? Adinolfi. No, Adinolfi, mi dicono sia molto bravo. Mi dicono. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. No, no, fortunatamente non l'ho mai trovato al tavolo. Io sono andato con Marco qualche anno fa, 4 anni fa, mi ha trascinato una sera a Saint Vincent. Era ancora, credo, nel periodo nero, forse ancora, sì. 2008, non mi ricordo. Sì, e siamo tornati, infatti, perlomeno io sono tornato a casa a piedi, te non lo so. Insomma, no, io sono andato via da solo, perché a un certo punto sì, tu ti eri messo a giocare. Cruciani a me mi piace perché è distaccato da tutte queste cose. Lui guarda, come guarda dall'alto, dice: ma chi sono sti imbecilli e mettono pezzi di plastica sui numeri? Ci guardava e chiedeva: ma che, perché metti quei soldi? Quanto vinci? Cioè, è distaccato dall'alto. Ma è vero, perché non capisco nulla, meno male. Sennò no, diventerei... ma perché non ti piace? Dai, perché diventerei malato, perché come tutte le cose, no? Quando uno... o le fai proprio bene fino in fondo, esatto. Non le fai. Capito, giusto, Parenzo? Tu sei malato. Ma di che, scusa? No, in generale, se è una persona normale, questo la gente lo sa, deve saperlo. Però se ho una fissazione, quella là poi diventa una roba... No, ma non hai quello, già uno che chiama la propria collaboratrice domestica, serva... E ma sei fissato, non l'ho mai fatto in vita mia, non l'ho mai fatto, non ce l'ho. Sei fissato con questa cosa della vieni brasiliana. A casa mia, tanto pulisce tutto la serva e poi... Ma non lo, perché mi devi sputtanare in questo modo? Che famone Parenzo, come se la canta, eh? Mamma mia. Scusa Marco, però allora, a parte questo appello che facciamo, sì, non solo alla Radio 24, okay, a Squinzi... Visto mai, ma no, mai visto mai, tanto ti conoscono tutti, sai che sei molto caro, pidi 300 o 400 mila euro l'anno a stagione, diciamo più o meno, no? Sì, è la culla, come si dice a Firenze, dai. Beh, no, 300-400, meno di 300-400 non si può andare con Baldini, dove andiamo? Sì, kiss kiss, magari. Alla fine ti mandano via per quello, perché non te possono più pagare, questo è il problema. o perché glieli chiedo prima, beh, dici, sarà per quello. Se non scommetti più, perché glielo dovessi chiedere prima? Avevi debiti che c'erano, mi dica che hai ancora debiti, no? Ah bello, ma lo sai quanto ho speso? Ora facciamo un appello per tutti i creditori. Sono... Chi è? Parenzo, chi è? Chi è? No, no. Marco, adesso lo richiamiamo. Ma. Quanto hai speso di che? Boh, Renzo da Torino. Renzo. Vada, no, Renzo, non Parenzo, Renzo. Buonasera. Senta, sono d'accordissimo con lei, anche se devo ricredermi che una volta la pensavo all'opposto. Ma su che cosa? Sul finanziamento ai partiti. Sì, affamare la bestia, togliere tutti affamare i soldi. Affamare assolutamente la bestia. Togliere tutti i soldi, togliere tutti i soldi, eventualmente un rimborso valutato dalle corti del conto regionali che stanno a fare un cazzo, non so cosa... Oppure limitare il finanziamento a un mese di campagna elettorale e ci devono presentare tutte le ricevute, cose, però, tutto. Però comunque quando uno presenta le pezze d'appoggio, sempre sub giudice, penso, mi pare che esistano una corte dei conti anche in ogni capoluogo di regione, quindi questi che non mi pare che facciano granché si guadagnino lo stipendio valutando queste cose. Beh, adesso non fanno granché, qualcosa faranno nella vita, insomma, avranno i loro compiti sì, istituzionali, certo. Seduti, si mettono il loro bravo cappellino, sì, vabbè, sì. Faranno qualcosa, d'accordo, non voglio... Vabbè, comunque, guardi, Renzo, sono d'accordo con lei, proprio se vogliamo lasciare un 10% proprio di quello che c'è adesso per il periodo di campagna elettorale, ma anche, un mese... Ma anche un 15, per carità, però sempre sub giudice e pagamenti a 60-90 giorni, come succede... Sì. In tutte le imprese private, perché poi in fin dei conti i partiti sono delle società per azioni, no? No, no, guardi, sono d'accordo con lei. Abbiamo di nuovo Marco, che è successo? È niente, a Roma sta infuriando un temporale, Beppe, viene giù il diluvio universale e è partita la linea. Il problema è che quando è partito l'appello... Vabbè, uguale, dai, meglio, almeno faccio una figuraccia. No, ma che figuraccia, dai, su. Senti, Parenzo, ma vogliamo chiedere una cosa su Marchione, lui con Fiorentino Doc, Baldini? Che hai pensato di quello? Quell'uscita di Marchionne che ha detto che è una aspetta. Che hai fatto? Guarda, io ti dico solo una cosa, che hanno fatto la Palio per Siena, la Marea e la Barchetta per Livorno, ora ne hanno fatto la Fiat Michelangelo per i 26 in pari con Firenze, perché è stata un po' una caduta di stile, no? Devono inventarsi la Fiat Michelangelo. La verità, tu sai, noi fiorentini siamo dei rimaioli, no? Sì. E qualche giorno fa ho postato, quando lessi appunto l'articolo, una piccola poesiola, come avrebbe potuto fare uno dei tanti vecchi fiorentini che si diverte a rimare, e se vuoi te la cito molto velocemente. Vai. 3, 2, 1. Caro Marchionne, se vai contro la città divina vuol dire che non hai mai mangiato una fiorentina. Ti hanno bacchettato pure da Torino, hai scatenato un bel casino. Caro messere del Lingotto, noi di Firenze non te lo mandiamo a dire sotto. Ti diamo un consiglio forse un poco amaro, ma tromba di più e pensa meno al denaro. Eh beh, applausi, applausi. Le rime di Marco Baldini su Marchionne. Io sono dalla parte di Marchionne, ma non in questa vicenda qui. No, sempre no, dalla parte... ma certo, ma guarda, ma anch'io in definitiva io non ci capisco neanche niente. Cioè, io so che lui ce l'aveva con Renzi, allora ha tirato in mezzo la Firenze, sì. Non c'entrava niente, è stato bacchettato anche dagli Agnelli, ha chiesto scusa. Però del resto, quando uno parte con queste cose, si deve anche aspettare magari una reazione goliardica. No? Tra queste, insomma, la rima col finale, col finale sexual. Un po' greve, ma che ci devi fare? Ci sentiamo tra poco, dopo la pubblicità. Marco, sperando che non casca linea, perché voglio chiederti di Renzi. Renzi, PD, tu sei di sinistra, diciamola tutta, insomma. Sì. Non è che bisogna... Beh, io non finisco mai di ascoltarlo, perché come ha detto Parenzo, mi rimette di buon umore. Ma che cos'è? Senti come si abbatte Giove Fluvio sulla capitale corrotta d'Italia. Senti. Roma, ma perché mi devi far sentire? Perché mi devi far sentire alla radio la pioggia? Che senti, è la cosa meno radiofonica che c'è. Va bene che tu non capisci assolutamente nulla di queste cose. Senti il vento, sentilo. Perché anziché essere qua con... senti che roba. Ma non posso sentire il vento alla radio, la pioggia alla radio. Marie, per cortesia, vada a sistemare il terrazzo subito, grazie. Pronto. Sì. Scilipoti e il portoghese. Para analisar as relações Brasil-Itália e o momento econômico europeu, o Diplomacia Entrevista recebe o deputado italiano Domenico Scilipoti, presidente da Associação Parlamentar Itália-Brasil. Este governo não foi eleito para o povo italiano, ele foi colocado lá para resolver alguns assuntos econômicos que a hoje não conseguimos resolver. Beh, non conseguimos risolvir. E bisogna anche sottolineare, tutti i paragoni con Oronzo Canà sono stati già fatti, il modo in cui dice in portoghese popolo. Sentiamo, o povo, o povo. No, bobolo, quello è bobolo e territorio, un'altra cosa. Senti. Ma da parte do italiano non c'è pregiudizio nel confronto del povo brasileiro, perché il povo brasileiro è sempre un povo che l'italiano ama, che l'italiano lascerà di fortificare mais un rapporto di relazionamento, no interesse, di due paesi, Italia e Brasile. Io lo amo questo personaggio, lo amo, lo adoro. Se non ci fosse lui, quante cose avremmo perso. Se non ci fosse lui, quante puntate, non signor Scilipoti. Scilipoti, mamma mia, puntate intere, è fantastico, ragazzi. Intanto, signori, io volevo dire a Parenzo che su Roma si è scatenato l'inferno sulla capitale ladrona, ma io sarei di Firenze, vorrei sopravvivere se possibile. Perché sta venendo giù veramente il diluvio universale. In piazza della Balduina è arrivato Noè con l'arca, una roba allucinante. Vabbè, allora mai visto tanta acqua, è vero, mai vista tanta acqua, ma proprio brutta da protezione civile quasi. Ma vai alle primarie del Partito Democratico o no? Ma guarda, io c'è Renzi che io adoro, figurati, io Renzi l'ho conosciuto quando era presidente della provincia, mi è subito parso ragazzino simpatico. E vabbè, questo sai, lascia il tempo e trova, anche Berlusconi era simpatico. Ma dicevo, cioè, ma fai il tifo per Renzi? Io sì, assolutamente. Poi se candidato alle primarie il giorno del compleanno della mia moglie, 13 settembre, cosa voglio di tutta la vita? Ma scusate. No, a me in effetti mi sta simpatico e lo tifo molto. C'ho un modo moderno di fare politica, mi piace molto, mi piacciono le sue idee. Sai, per quello che può valere, detto da uno che di politica se ne intende, come diceva Fiorello, noi siamo più che altro di centro niente, perché siamo un po'. Vabbè, fai un po' un endorsement, però Baldini, l'endorsement a Renzi contro Bersani, allora vacci a votare, però, o non ci vai? No, ci vado sì a votare. Ah, io ci vai? Votato, sì. No, alle primarie, dico. Alle primarie, ma si può? Scusa, devo chiedere un ignorante. Lo so, è complicato. Bisogna registrarsi, fare eccetera, dichiarare che sei di centrosinistra. Vabbè, quello sai, lo sanno anche i sassi, cioè quello non è un problema. Sì, però bisogna, insomma, un po' complicata. L'hanno resa un po' difficile. E vabbè. Che vuoi fare? È così. Facciamo una telefonata, Parenzo, facciamo una telefonata a questo questo signore, a questo numero di telefono, in realtà non so se sia di un signore che si è inventato la storia dei 700 film per D'Alema, che non se ne vuole andare, che non se ne vuole andare. Facciamolo in diretta su 393 31 54 209. Vi prego, io voglio capire chi risponde. Magari risponde qualcuno in carne e ossa, forse una segreteria. Io posso farti l'imitazione di D'Alema, posso provare. No, ma tu non sei capace. Per lui e 300 per la barca, insomma. Non lo fare, non lo fare davanti a Baldini le imitazioni, che faccio fare una figura brava. No, lo so, però possiamo provarci. Cioè, boss, è lui. Aspetta un attimo, ecco il telefono, aspetta. Tu dica la segreteria di D'Alema, intanto. Tu dica la segreteria di D'Alema. Sì, aspetta, proviamo a fare sta stronzata, dai. No, hai sempre un atteggiamento negativo, comunque, sbagliato. Sì, ce l'avevo anche con Bossi, effettivamente. Dopo invece è riuscita. Vediamo che succede. Beh, se risponde qualcuno, però. Piove. 3. Informazioni gratuite. No, vabbè, non può rispondere nessuno, è impossibile, dai, è impossibile. Senti, ma quante possibilità ci sono, Marco, che quasi zero, che tu e Fiorello tornate a fare la radio insieme? Bah, non lo so, adesso sai, stiamo un po' valutando. Basse. Il problema non è la voglia, no, è trovare che non c'è nessuno che vedrà i soldi. Costate trovare troppo. Il posto dove farlo. Costa... No, ma non è neanche costare, perché sai, oggigiorno tu mi insegni che se trovi gli sponsor giusti non è un problema di soldi. Sì, sì. Insomma, per Fiorello penso si muoverebbero i monti. Ma è proprio un problema forse di connotazione, di sai, quando fai la Rai poi o fai una radio tipo la vostra... O fai, cioè ci vuole un habitat un po' più ufficiale, insomma, di una radio normale, ecco, io penso. Però insomma poi... ancora non è matura la cosa. No, ancora non è matura, siamo ancora attaccati all'albero. Capito? Per un po' ancora. Capito? Tanto con quella pubblicità là qualche respiro ce l'hai avuto, va. Su. Ecco, diciamo, l'hai detto bene, qualche respiro. Fiore ancora, no? No. Mi prendono per il sellino anche i tombini, però sì, no, ma anche Fiore, cioè, ci mancherebbe, lui penso non abbia bisogno. Io no, sì, più però, tu, insomma, ecco. Più te dico, no? No, sicuramente io, lui no, sì, sì, però insomma va bene. Dai. Ma scusa, sui debiti, che mi dicevi sui debiti prima? Non ho capito. No, che volevo, facciamo un annuncio a tutti i debitori, visto che ho questa platea, scusami, esatto. Ecco, visto che sono senza lavoro, state fermi, perché ancora... Ma quanti soldi c'hai ancora da dare a questa gente? Rispetto a prima spiccioli, cioè quel tutto, dimmi il tutto, diciamolo ufficialmente, tutto devo ancora ora, il tutto? Sì, ora devo dire tutto ora? Tutto sicuro? Sì, si può? Sì, si può? Sì, un paio di piottarelle, dai, come cioè piottarelle che sono 200.000 euro? Sì, 200.000 euro di debiti ancora? Sì, 200.000 euro, dai. Beh, insomma, io avessi 200.000 euro di debiti mi sentirei male io, però tu sei abituato. Ma no, la sana incoscienza, capito? Quando uno è in mezzo a, diciamo, alla tempesta, è abituato alle onde. Ma è tutto gioco oppure spese, tutto gioco ancora? Tutti, no, annessi e connessi, tutte cose poi ti vengono, diciamo, derivate da quello, ma insomma non giocati, ecco. No, quelli vabbè, abbiamo già dato, quelli abbiamo già però dato, tutti insomma, derivati dal gioco, da quella, da tutte, sì, le storie, sì, là. La colpa è sempre la mia, insomma, non è che 200.000. Tua moglie che dice? Beh, 200.000. Mia moglie ogni giorno mi moglie, quando ritorno a casa mi guarda molto male, come in questo momento. In questo momento perché parli alla radio con noi e racconti queste cose qua. No, perché parlo con voi, figurati. Fra l'altro io quando vi ascolto, io sono un fan sfegatato, lo sai, sì, lei invece non gli piace il modo in cui risponde alla gente, ma gli ho detto lui è forte perché risponde in questa maniera. Vabbè, ma se non rispondo come così si dice, che faccio? Certo, come si dice a Los Angeles, is a paracool, is a very big paracool. esatto, e io lo sai, ti adoro, no Beppe, ma non da ora, da io sempre, so, anche so, Parenzo, so, mi, so, mi piacete alla morte, cioè per me dovreste esserci solo voi alla radio, però lei è un pochino, sai, ancora una di quelle che invece sta attenta alla forma, che accogliere, cioè, accogliere l'ascoltatore, no, accogliere, renderlo, no, vellicarlo, esatto, lisciarlo, amarlo, e invece no, prego. E invece no, e quello è bello, e invece no, ti abbraccio, ma ciao, immagini... ciao. Che dici, che dici, no, Parenzo, no, che dici? Dico, che mamma dici? Mia, di qualcosa, piove. Baldini, che stavi dicendo in conclusione? Che stavi dicendo? No, dico, te lo immagini, Baldini, il Cruciani che dice buonasera, caro radioascoltatore, prego, dica la sua cosa interessante di oggi. Cioè, sarebbe, non pacco, lei ha detto minuti, una cosa che non risponde a verità, si va a nascondere, messere. Poi dice, dopo, ma che cazzo dice, traffico? Possibile che non risponda quel numero maledetto di chi ha raccolto le 700 firme di amministratori, eccetera, eccetera, del Partito Democratico per D'Alema? Mi stupisce, se uno vuole aderire a questo appello a favore della ricandidatura di D'Alema, beh, insomma, dovrà trovare un numero di telefono disponibile, un qualcuno che risponda a questo dannato numero. Rifatemelo su, rifatemelo! Arriva, eccolo. hanno messo un numero tarocco, capito? Hanno messo un numero per aderire all'appello a favore di D'Alema e poi non rispondono. Guarda che incredibile. Senti, qua ho un altro problema, che mi sta piovendo dentro la... Dentro cosa? Dentro cesso? Dentro dove? Ma sì, dentro la camera, che c'è un buco, si vede nella mansarda. Informazione ma chi se ne... Qui la questione è questa. Hanno fatto un appello per la conferma di D'Alema in Parlamento. C'è un numero di telefono da chiamare. Ma non risponde nessuno, fate qualcosa, oppure dopo l'annuncio di oggi di D'Alema è già finito tutto, perché questo è possibile, eh? Francesco da Catanzaro, buonasera. Buonasera. Vada. Madonna mia, un'ora al telefono. Francesco, che vogliamo fare? Vabbè, volevo dire che io ho un modo tutto personale per affamare la bestia, come dice lei. Sì, e qual è? Evadere totalmente. Evadere totalmente? Sì. Cioè, scusi, perché... lei mi sta dicendo che lei è un evasore totale? Totalissimo, non totale. Cioè, più sento queste notizie, più mi carico, mi gaso. Cioè, lei ci sta dicendo, io... Quanto guadagna, scusi, Francesco? Bene, no, diciamo che non guadagno più perché ho un piccolo gruzzoletto da parte. Ah, un? Gruzzoletto da parte. Un gruzzoletto da parte, però lei non ha mai pagato le tasse in vita sua. Devi attribuirmi parenza di moderare i temi, quindi subito parte si vergogna. Vabbè, adesso è libero di dire quello che vuole, Parenzo. Però subito non si vergogna, è già antipatico. No, però scusi, senza... Francesco, lei ci sta dicendo che è un evasore totale. Totalissimo. Da quanto tempo è un evasore totale? Da 10 anni a me. Da 10 anni. E in questi 10 anni quanto ha accumulato? Bene, per vivere fino a notte inoltrata, diciamo. Cioè, fino a quando? Scusi, ci faccia una cifra. Ha guadagnato, che ne so, 2 milioni di euro, 3 milioni di euro. Quanto ha guadagnato? Qualcosina in più, via. Qualcosina in più, cioè 4 milioni, possiamo dire? Più o meno, sì. 4 milioni di euro e lei li ha guadagnati senza pagare un euro di tasse? No, all'epoca l'ho pagato. Diciamo di sì, va. Beh, diciamo sì o no, Francesco, sì, non sì, ci dai, sì, dai, ormai mi sono sputtanato con voi, sì. Scusa. Però il mio sì. modo di... Roba da matti. Di vivere è il fatto che io evado, però non chiedo nulla allo Stato, pago tutto. Beh, in che senso, va? Scusi, cosa paga? Pago tutto. Ma cosa? Sì. Pago per gli ospedali, pago per le scuole di mia figlia, pago... Pago tutto. Cioè va dai privati? Eh? Va dai privati? Tutto privato. Tutto privato. Cioè lei è nulla tenente formalmente? Nulla tenente. Nulla tenente. E però invece di usufruire, diciamo, dei servizi dello Stato, paga le scuole private alle figlie, va agli ospedali privati e paga di tasca sua, è così? È logico. Io non chiedo nulla logico, e non do tu. Ma non, lei, sarebbe semplice però cavarsela così, Francesco. E come sarebbe semplice? Lei... deve pagare e sentirsi umiliato da tutti i gentagli ogni giorno. Dimmi se la proporzione è uguale. Però scusi Francesco, mentre io le do ragione sul fatto che c'è della gentaglia che ruba e i soldi dello Stato vengono sprecati, non c'è dubbio. Se tutti ragionassero come lei saremmo falliti da un pezzo però. No, eh? No, tutta è un'economia privata, bellissima. Ma come tutta un'economia privata? Ma non, tutti pagano chi? E se lei non paga e tutti pagano chi? Io non pago perché ho una concezione del mio futuro senza pretendere nulla. Ho capito, ma non è che se ognuno di noi avesse una propria concezione, ma sarebbe la... Sarebbe bellissimo. Sì, ma non sarebbe bellissimo, sarebbe l'anarchia più totale. Cioè? Ognuno potrebbe fare quello che vuole, non pagare le tasse, non esiste. In un villaggio privato lei paga tutto, non penso che ci sia anarchia, no? Sì, ho capito, ma non, questa è una concezione che è contraria all'esistenza di uno Stato, ha capito? Cioè lei dice io sono contro l'esistenza di uno Stato, allora vada a vivere. Io le faccio un esempio. Sì. Scusi, ma lei che mestiere ha fatto per questi anni, no? Per sapere. Nel mondo della finanza. Nel mondo della finanza che vuol dire? L'operatore finanziario, no? L'operatore trader, finanziario. Trader, sì. Il trader finanziario. Lei da trader finanziario, da dove? Se io le dicessi. Sì. Un PM qualsiasi di farsi una capatina d'Andorra, sì. Tutti questi partitini che io so benissimo, no? Cioè salterebbe domani mattina tutto il sistema. In quindi, che senso? Però, in che senso? Se tutti i conti ci facciano male i partiti, no? Quindi, io mi metto a ridere a sentire tutti questi in televisione, giro conti, bonifici, ma sono veramente cose del perché si mette a ridere? E perché lo danno pure le pietre, cioè veramente. Che cosa? No? Cosa sanno le pietre? che i fondi italiani sono tutti all'estero, sia delle grandi. Ma i fondi italiani di che ma cosa? Ma di cosa parla? No, lei sta dicendo delle grandi aziende, ci sono dei fondi neri, diciamo, chiamiamoli così, in banche, ciao, in banche all'estero, in tipo banche a Madeira, in tutti i posti. Tutti sanno. Vabbè, però al di là di questo, Francesco, questo, ecco, lei è un evasore totale, ci confessa, io da 10 anni, per quanti totalissimo, anni? Totalissimo, no, totalissimo, non ha pagato un euro facendo il trader finanziario. Io sono stato, io le dico, sono stato settimana scorsa a Roma. Allora vedo Bruno Vespa col Mercedes blu della Rai, Adriana Volpe che l'autista l'accompagnava a mangiare e poi la veniva a prendere, io godevo, perché dico guarda i soldi di chi, poverini, pagano, come vengono sprecati, cioè c'è uno spreco, cioè, io posso concepire un primo ministro con una però tua. Scusi un attimo, se lei viene in Calabria però scusi, se lei viene in Calabria i consiglieri regionali che hanno tutti, sì, quinta elementare, vai, più istruito alla testa media, sì, sì, hanno l'Audi 4002 blindata che ognuna costa 250.000 euro. Però Francesco, io sono d'accordissimo con lei sugli sprechi, le regioni eccetera, però scusi, lei non ci può fare la lezione, no, sugli, no, sprechi, lezione, quando da 10 anni non paga un euro di tasse, si dice evasore totalissimo, non dà un euro di contributo. Non do un euro, se cado malato pago il triplo rispetto a quello che paga te. Ho capito, ma paga i privati, non è che contribuisce alla collettività, sì, contribuisce anche. Ho capito, ma lei non può cavarsela in questo modo. Io mangio fuori, spendo fuori. Vabbè, quello anche, cioè, quelli che pagano le tasse lo fanno, però. Cioè, ma non, no, è che... ma chi paga le tasse non lo può fare, obiettivamente. Vabbè, un attimo che c'è il traffico, resti lì. Francesco da Catanzaro ci ha chiamato, trader finanziario, si dice evasore totalissimo, totalissimo. Non paga da tanti anni un euro, io non ci credo ancora, Francesco. Però, comunque... La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Beh, siamo qui alle 20:19 ancora a combattere, caro David, con tutti, anche con questo signore che ci chiama da Catanzaro questa sera, Francesco, il quale si dice evasore totalissimo, avendo lavorato per tanti anni nella finanza, non ha pagato un euro di tasse, non so da quanti anni, e si dice anche fiero. Ma come andatelo a prendere? Che significa? Andatelo a prendere subito, amici della finanza, subito. Fai un appello allora, serio. No, ma io sono serissimo, cioè se uno chiama per provocazione, va bene. Francesco, è una provocazione oppure è vero? Guardi, per provocare ci sono tanti modi, no? Cioè lei ci conferma, io sono un evasore? Io le posso dire, no? Sì. Un esempio che ogni giorno io cerco di essere... Ma lei è sposato, ha figli? Sì, sì. Io cerco di convincermi ogni giorno, faccio uno sforzo terribile, dico da oggi in avanti voglio pagare, sì. ma tutti gli avvenimenti, cioè lei pensa che ho saputo che la moglie del povero Biagi, no? Ma che c'entra la moglie di Biagi adesso? Ancora la scorta ogni mattina la vanno a prendere. Vabbè, scusi, lei però, ma cosa abbia pazienza, lei è un evasore totale. Ma inizia a pagare le tasse invece di dire arrampicarti i scempiaggini. Questo Francesco, io credo che lei ancora stia scherzando, però mi dica una cosa, una cosa. Lei come fa a non pagare le tasse? Io non faccio, come faccio? Sono disoccupato, no? Ho capito, ma quello lo so che lei è disoccupato formalmente, lei fa il trader finanziario, è tutto registrato, avviene tutto via computer. No, cioè ormai non lo faccio più, ormai sono... Ho capito, ma prima come faceva? E prima facevo con società. Con società? Particolari, no? Con società particolari. Vabbè, insomma, adesso non vuole scendere nel dettaglio di come faceva. Vabbè, se lei mi vuole fare un interrogatorio, ma non le sto facendo l'interrogatorio. Parenzo, che dici? Dobbiamo mandare alla fine. Parenzo! No, no. Ma che no, sta facendo? Ciao. Ado, ciao. Ma che sta facendo? Risponde a un altro telefono. Oh, ma che fai? Ma come che faccio? Ma c'è un allagamento in corso a casa mia, ma come che faccio? C'è uno che chiama, che dice che è un evasore e non gli dici un cazzo, mi piove dentro casa e mi dici pure che faccio. Vergognati, tu no, sei l'evasore. Ma stavi parlando con un'altra persona al telefono, non mi pigliare in giro, cretino. Stavo parlando con un'altra persona perché mi devo spostare da qui e non posso. Ma non me ne sto, ma forse non hai capito ancora che io me ne frego di quello che stai facendo. Stiamo parlando con una persona. Stiamo parlando con una persona che è un ladro. Stiamo parlando con un ladro. Con un ladro. Vabbè. Hai capito? Resti lì, Francesco. È con noi da Udine un altro dei candidati. Il primo l'abbiamo intervistato la scorsa settimana, ne ha dette di tutti i colori. Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Tondo, Deborah Serracchiani. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Come sta? Piove anche lì? Sì, piove e siamo allagati. Pure là allagati. Né cioè, più nemmeno come Parenzo, sì. Roba da matti. Capito, Parenzo? Ma è una buona. Non lo so, ma qui è un disastro. È inutile che tu sei lì con la scorta, con la macchina lì dentro. Ma poi ti porta la spesa a casa. No, neanche per idea. Non ho la scorta. No, si riferiva a me. Non lei, dicevo lì. No, si riferiva a me. Il giovane tiranno della zanzara. Il giovane tiranno, non più giovane peraltro. Ma più giovane manco per niente, comunque. Insomma. Il tiranno della zanzara, che il deus ex, quello che il padrone, il monarca, detto anche Mona in Veneto, assoluto, il monarca assoluto. Che è amico carissimo, per carità, per andare, è lì nella sua torre Seburnea, esce da là, c'ha la macchina che lo prende. Ma non è vero, ma sua. Quando mai? La cameriera che gli cucina i maccheroni e i quattro ma formaggi. Ma non è vero, ma tre quattro persone che lo sventolano e lui che dice traffico, ascoltatori, dato questi che lo sventolano, capito? Per lui non sono la vita normale, non è un problema, capito? Se piove uno deve raggiungere un altro posto, tutto allagato, per lui non è un problema, perché tanto lui ha la sua trasmissione, traffico, ascoltatori, voglio battaglia. Questo fa lui. Vabbè, ho capito. Mi pare che abbiate qualche problema. Sì, abbiamo qualche problema ogni tanto di convivenza, purtroppo. Com'è normale che sia? Lei non ha problemi di convivenza col suo fidanzato ogni tanto? No, in questo momento direi di no, e può capitare ogni tanto degli alti e bassi. Appunto. Ma diciamo che non reagisco come Parenzo. No, no, ma lei è felicemente fidanzata, signora Serracchiani? Sì, da 20 anni. Da 20 anni? Scusa, quest'anno sono 20 anni. 20 anni. E perché non si sposa? E perché non si sposa dopo 20 anni di fidanzamento? Ma infatti, insomma, diciamo che il pensiero sta lì, insomma, adesso. Ma scusi, ma io non ho mai visto un fidanzamento così lungo, scusi, signora Serracchiani. Ma insomma, uno deve fare le cose fatte bene, seriamente, pensarci. 20 anni di fidanzamento. Ma non mica le scelte così, insomma, no? Ma è una cosa pazzesca, io sono uno fidanzato da 20 anni, io non ho mai, io una cosa del genere francamente non l'ho mai. Lei quanti anni ha, signora Serracchiani? 41. Cioè lei è fidanzata quando aveva... convivenza diciamo circa 18. Da 18 anni è convivente, da 21 sì. È fidanzata, sempre fedele nei secoli come i carabinieri oppure no? Sempre fedele nei secoli. Cioè lei in 20 anni ha visto solo un uomo, io non voglio dire niente qui, perché non voglio dire niente. che lei faccia della facile ironia, ma insomma c'è anche gente che non ha bisogno di cambiarne uno a sera, insomma. Ecco, beh, una cosa è una non sera. Non ha bisogno di fare festini o semplicemente rivolgersi da qualche altra parte, ci sono anche quelli che per carità. Quando trovano la persona giusta la trovano e basta, insomma. Capito Parenzo? Impara dopo 20 anni una sola persona, impara, caro Parenzo. Ma non rida, che è una cosa seria. No, è serissimo, come no? No, però voglio dire, Parenzo, impara da questa cosa qua. 20 anni con la stessa persona, senza mai toccare un altro uomo. Dovresti imparare da questo esempio. Guarda, sei in un terreno che non è minato, tu sei in un terreno che è molto scivoloso. Molto. È bombardato. No, ma scusa, qual è il terreno scivoloso? Spiegami qual è il terreno. No, fammi parlare, perché prendiamo la trasmissione alla Serracchiani, che è il candidato della regione lì, alla regione Friuli, sì, lì, alla regione Friuli Venezia Giulia, la presidenza della regione Friuli Venezia Giulia. No, però scusi, capisco che le regioni non vadano più di moda, però un po' di rispetto dice lei, no? Per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Però scusi un attimo, questo è abbastanza inquietante come cosa, cioè io dico una ragazza di 41 anni, giovane come lei, che da 21 anni... Non mi dica anche che prima che è stato l'unico uomo della sua vita. No, questo no. Questo già mi solleva. Questo no. Mi tranquillizza un po'. Però da 20 anni è una cosa pazzesca. Guardi che lei è un'assoluta. Lei lo sa di essere un'eccezione, sì. Beh, insomma, diciamo che conferma evidentemente la regola, no? La regola è quella che se si trova la persona giusta non c'è bisogno di cambiare. Comunque lei è il contrario del presidente Tondo, perché il presidente Tondo è stato si è separato, adesso c'è una fidanzata, poi insomma è uno piuttosto, da questo punto di vista, piuttosto allegro. Lei pare che abbia dichiarato a cui piacciono le belle donne, no? Sì, dichiarazione... Beh, insomma, diciamo qui si scambiano i ruoli, caro Parenzo, cioè abbiamo una situazione un po' più del PD, cioè al centro-sinistra un po' più, no? No, anzi no, in che si scambia al contrario, cioè il PDL conferma la sua, no, la sua anima un po' beh, più appunto io scusi Cruciani, ma stavo dicendo che francamente confermiamo le regole. No, infatti mi sono sbagliato io. Parenzo, che hai fatto? Sei stato preso questa notizia che l'onorevole Salvatore Serracchiani, che ti piace moltissimo, io so perché me lo confessi sempre, è no, fidanzata. È una persona per me, mi piace, sembra che ma mi sì, me l'hai sempre detto, però, quando andiamo a Strasburgo me l'hai sempre detto, una bella ragazza, cioè, vabbè, comunque brava... io non, no, voglio dire non, cose, non voglio dire cose che ci confidiamo non io e te. Siccome dici un po' di stupidaggine, metti anche in imbarazzo la Serracchiani e il suo fidanzato oltre che me, dico che è una persona molto per bene. Vabbè. Eccolo qua che è arrivato. Vabbè, ma chi è arrivato? Fai le tue robe. Ma chi è arrivato? Scusa, chi è arrivato? Fermo, chi è arrivato? Ascoltami. È arrivato il taxi. Ma perché devi andare nella sul vita, taxi adesso? Nella vita delle persone normali che non hanno come te la macchina blu. Ma io non ho la macchina peda, blu, non ho la che macchina. Sono, che fanno, l'ha capito? C'è anche. Sì. Ma cazzo, ma qui potevano togliere queste foglie che si bloccano i tombini. Ma io non. Beh, il racconto guarda di Parenzo del diluvio a Roma. Voglio che... Sì, sì, siamo molto in difficoltà in questo periodo. Diciamo che la coppia funziona un po' a singhiozzo. Al contrario di... Insomma, però ci dia un annuncio almeno sul matrimonio, su onorevole Serracchiani. Almeno... Ma no, ma ci sto pensando seriamente, anche perché onestamente, insomma, non si ottiene, mi pare, un tipo di regolamentazione diversa. E quindi, arrivati alla mia età, si pensa pure. Entro l'anno, su. Entro l'anno, no, entro l'anno ormai no. Non mi pare che l'avevamo già in qualche modo detto. Insomma, adesso no. Entro l'anno non lo so, ma insomma, non tardi. Ecco, non tardi, dopo le elezioni o prima delle elezioni? No, penso prima. Prima delle elezioni, sì, mi sposo. Cosa pazzesca. Sì. Una cosa... Penso prima, insomma, sì, perché credo che sia anche giusto, insomma, no? Cioè, quello... è un altro gesto, tra virgolette, di serietà, ma non ce n'era bisogno. Beh, adesso non è che uno se non si sposa non è serio, eh? Cioè... No, ma infatti appunto dico non ce n'era bisogno, però è un gesto in più che conferma, diciamo così, un certo impegno. Ecco. Non c'è dubbio. Senta, ma perché se ne deve andare alle 20:30? Che deve fare alle 20:30? Io alle 20:30 ho un'assemblea provinciale del Partito Democratico di Udine e non mi piace arrivare tardi. Le persone si scocciano, giustamente, e quindi insomma io che ho imparato dall'Europa ad essere estremamente puntuale, cerco di esserlo sempre, insomma. Vabbè, mi pare un gesto di rispetto. Mentre lei va là, però continuiamo a parlare, sennò altrimenti è tutto finito qua. Devo chiederle alcune cose su D'Alema, devo chiederle... mi chiede velocemente, insomma, abbiamo parlato solo di Parenzo. E no, di che Parenzo? Di lei, questo è importante. Lo so. E lei è rimasto sconvolto della notizia? No, ma è abbastanza sconvolto. No, lo so, so che lei è fidanzata, però da 20 anni, addirittura da 20 anni con la stessa persona, la cosa mi sconvolge. Cioè, mai una tentazione, mai. Ma no, ma che c'entra? Insomma, uno ci può anche avere dei momenti che, no, rifletti sul mondo e sull'universo, però, su quello che è intorno. Però tradimenti però, mai. Se uno... No, se uno ha le idee chiare, se le idee chiare. Le idee chiare, no? Vabbè, comunque. Ma lei non si è mai tipo giocata un dopodiché che diciamo che l'offerta che c'era in giro non mi pareva all'altezza di quello che già in qualche modo avevo, ecco. Capito? Parenzo, impara. Ma guarda, qui impara. Qui è il bue che dà del cornuto all'asino. Comunque Tondo ha detto che lei è una romana trapiantata in Friuli. Risponda almeno su questo al presidente Tondo, che dice che lei non ha radici in Friuli mentre è romana. Quello è vero, però è romana trapiantata lì. Sono nata a Roma, questo non fa di me una persona che non conosce e capisce il Friuli Venezia Giulia, al contrario, lo apprezzo molto più di lui perché proprio ci sono venuta a vivere per scelta. Cioè lo apprezza molto più di Tondo che invece... Sono 20 anni che sono qui e quindi voglio dire, credo che in 20 anni, fatta la scelta che ho fatto di candidarmi in Venezia Giulia, vuol dire che insomma amo questa terra. I trapiantati amano di più il Friuli qualche volta degli autoctoni. Beh, insomma c'è un senso di appartenenza forte, no? Che non è di più o di meno, ma c'è un senso di appartenenza forte, proprio perché si fa una scelta precisa, no? Si viene a vivere in un luogo e si sposa quel luogo in qualche modo. Però lei è chiaro, termine, ma sposare, sì. Che nel mio caso può sembrare. Però sposarsi può aiutare pure per le elezioni, no? Che, diciamo questo verità. Non lo so, no, ma veramente sa che cos'è che sta contando? Cosa? Semplicemente la numerologia, cioè il fatto che sono 20 anni, tutto qui. Cioè 20 anni. E allora sa, è meglio sposarsi a 20 anni piuttosto che a 21, insomma. Ah, cioè, dopo 20 più... anni di. Dopo 20 anni sì, di. Sì, solo quello. Di fidanzamento. A prescindere dalla candidatura. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. And that means I'm gonna go bite, a whitey white, sir. Yes, I'm nature's mosquito. I'm gonna go bite, yes. Bella questa, Parenzo, Ma che razza di musica è? Beh, non hai capito niente, Mosquitos, mamma mia. Sei. Ah. Sei proprio all'ABC. I'm nature's little mosquito. Well now, Mr. Mosquito, is there not some beauty in you that I simply can't spot? Well, there is. Well, you're right, son. You see, God love put me here. He made me just like you. So I'm nature's mosquito. Eccoci qui, La Zanzara, ultima parte, 800 24 00 24, con Deborah Serracchiani in collegamento da Udine in campagna elettorale. Senta, volevo chiedere perché uno deve abbandonare il Parlamento europeo dopo aver fatto un patto con gli elettori per candidarsi in Friuli, Serracchiani? Ma guardi, non che non ci abbia riflettuto a lungo, ma penso che in un contesto come quello difficile in cui stanno vivendo le regioni, e soprattutto una regione come la mia che è una che ha una forte vocazione internazionale, l'esperienza europea posso metterla al servizio della regione, però, poi decideranno i cittadini. Quello non c'è dubbio, però è sempre la solita storia, diciamola tutta, Parenzo, per carità, poi non è che la voglio impiccare a questa cosa qui, però... è successo, c'è una migrazione ogni tanto, cioè non si riesce a fare un mandato, paga sto taxi avanti, io devo stare appeso a queste cose però qui. posso dirle una cosa che poi ovviamente non può, la scelta che ho fatto non è cambiare Parlamento per Parlamento, perché francamente sarei rimasta al Parlamento europeo anche perché trovo l'esperienza entusiasmante, ma è la scelta appunto di della candidatura alla presidenza della regione di Venezia Giulia per i motivi che le dicevo, insomma c'è un'esigenza forte davvero di tornare, diciamo così, ad essere utile al proprio territorio. Ma questo naturalmente lo capisco, non è che voglio dire che è tutto strumentale, però lei si candida alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia e se dovesse vincere lascia il Parlamento europeo. È già successo a De Magistris a Napoli, anche Sassoli si vuole candidare a Roma, nel passato è successo alla Gruber, a Santoro, anche nel centrodestra, per carità, mica solo nel centrosinistra. C'è un po' l'abitudine di considerare quel posto lì come una sorta di autobus, come un posto di passaggio, come un posto provvisorio in vista di incarichi futuri. Un po' è così. Lei in un certo modo conferma questa regola, questo glielo devo dire. No, no, ma io me ne rendo conto, ci mancherebbe, però francamente non mi può accomunare a chi l'ha pensato un autobus questo, insomma io feci una scelta precisa e ho fatto un'altra scelta in questo senso che le ho spiegato, che non è quella di cambiare il posto parlamentare europeo con quella di un parlamentare italiano, ma è una scelta completamente diversa, insomma, che poi... Lei non si candiderà al Parlamento italiano, ci ha detto una volta, no? No, cioè, no, questo no, no, sicuramente al 100%, no. lo possiamo... Sì, no, nel modo più assoluto. Cioè se lei non vince... di candidarmi alla presidenza della regione, quella scelta rimane, insomma, come l'unica scelta che ho fatto, non ho bisogno di farla. Parenzo, anche tu sei arrabbiato per questa cosa di Bruxelles, che uno considera Bruxelles o Strasburgo, quello che è, come una sorta di... Ma un po' sì, perché dicono tutti l'Europa, poi comunque... però no, secondo me non è questo il punto, la cosa più interessante che c'è oggi l'onorevole Serracchiani è... sta da 20 anni con la stessa persona. Oddio. E quello che io voglio capire è perché non vi dite giochiamoci un jolly, cioè nel caso capitasse di avere una svista con qualche lui amichetta e lei con qualcun altro ci giochiamo, cioè lei il tradimento del suo partner lo sopporterebbe il tradimento del suo partner? No, con grande difficoltà non è un no. E tra l'altro guardi che lui lo ha saputo in diretta stasera di questa roba qui, che stavo solo riflettendoci sopra, l'ho detto adesso pubblicamente. Insomma, è un problemino, ecco, che adesso bisogna risolvere. Vabbè, l'ha detto via radio. Questo è una bene. Cosa meravigliosa, invece. È una cosa meravigliosa, l'ha detto perché se lo sentivo non gli andava di risponderci in maniera evasiva e ha detto prima delle elezioni mi voglio sposare ed è venuto dal cuore. E, insomma, non litigate, Parenzo, non vogliamo aver creato un problema noi, anzi, una cosa felice, una cosa Vogliamo essere i testimoni della storia. No, adesso i testimoni mi sembra esagerato. Oh là là. Testimoni mi sembra esagerato, non è che ci conosciamo così bene, però insomma ci fa piacere che questa cosa, che questo annuncio sia arrivato attraverso la Zanzara, anche se ma se l'è presa sul serio, cioè le ha mandato un messaggio, ma che dici, ma che stai facendo? No, beh, veramente sta seduto accanto a me, non è che ancora non credo che abbia realizzato ancora bene, ma veramente non lo sapeva, no? Della cosa. Non sapeva nulla. Veramente, ne avevamo parlato, ma proprio in modo, sa come si dice, ma mi piacerebbe andare in Australia un giorno, ecco, più o meno quello. Invece lei ha detto, la voglio fare prima delle elezioni. Che mancano, diciamo, sei mesi. La logistica e la localizzazione è una novità, ecco. è una novità. Vabbè, dunque, ma com'è, non ce lo vuole passare, no? Per dire se è contento. No, no, non me lo passo, Questo, fino a questo non si può arrivare. Scusi, come si chiama il suo fidanzato? Così. Riccardo, signor Riccardo. Salutiamo il signor Riccardo. Parenzo, saluta il signor Riccardo. Buonasera, Riccardo, complimenti. Anche se tu hai insidiato a Strasburgo diverse volte, c'è la Seracchiani, però. Adesso però devo andare, ragazzi, veramente. Senta, D'Alema, lei lo chiederebbe a D'Alema di ricandidarsi oppure no? Assolutamente no. Cioè, se fosse, che ne, poi non si capisce chi è che glielo dovrebbe chiedere. Anche perché veramente, cioè, guardando appunto, prima abbiamo citato spesso l'Europa, no? Ecco, sì. Appunto, una buona pratica. Si può avere autorevolezza ad essere una grande personalità politica anche senza incarichi istituzionali, quindi insomma, voglio dire, sarebbe una novità straordinaria anche per il nostro paese, almeno sarebbe anche un segnale di maturità. Cioè, il Partito Democratico non dovrebbe chiedere a D'Alema di ricandidarsi, così sì. Per quanto mi riguarda, no, anche perché sa come si dice, io non ne conosco uno che si autocandida, ma conosco tanti che dicono "se me lo chiede il partito". È sempre così, infatti, ecco, è sempre così. Scusi, ma le deroghe, poi chiudiamo per davvero, fosse per lei nessuna deroga allora? No, francamente. Tranne Bersani, ci siamo dati una regola ci siamo dati una regola precisa, insomma, abbiamo detto 3 mandati, io penso che in questo senso bisogna essere anche coerenti, no? Beh, poi sono previste le deroghe, eventuali deroghe sono previste, credo, nello statuto, Sono previste, però insomma, secondo me non bisogna abusarne e forse solo Bersani. Le deroghe poca. Beh, lo statuto dice già che l'unico che ha le deroghe è il segretario nazionale. Che si chiami Bersani o si chiami in altro modo. Grazie, a presto. Buona serata. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Claudio da Reggio Emilia, buonasera Claudio. Buonasera. Le è piaciuto Francesco come intervento? Beh, non è male, adesso si è abbassato, cioè si è abbassato, se n'è andato. No, invidia no, io pago le tasse regolarmente, per cui non ho nessuna invidia. Ma non è detto che sia un evasore, sa? Perché potrebbe essere tranquillamente in regola se ha qualche milioncino di euro. Non credo, aspetti un attimo che vediamo quello di D'Alema. Resti lì, Tanto non risponde nessuno, non so perché, danno i numeri per chiamare... Per chiamare a raccolta i sostenitori di D'Alema e poi non rispondono. Bah. 3. Informazione gratuita. No, non dicevo. Va bene, in realtà c'era scritto di mandare un sms a questo numero, non di rispondere, però noi ci proviamo. Claudio, allora? No, dico, Francesco potrebbe essere anche in regola, perché se ha qualche milioncino di euro in titoli o depositati in banca. Sì, ma l'ha detto lui che è un evasore totale. Cioè, no, sì, a parte comunque. Niente, comunque io telefono solo perché avete parlato di Fioreto anche stasera. E la Santa anche cosa l'ha definito un maiale? Sì, Fiorito, sì, l'ha definito un maiale, sì. Un maiale. Beh, non è una bella uscita della Santa anche come collega. L'aveva mezzo detto. Comunque, io sono il promotore del comitato Fiorito Libero. Lei è il promotore del comitato Fiorito Libero. Che colpa ha Fiorito? Lei dice è in galera, ma in realtà i soldi li gestiva per conto degli altri. No, ma chi gliel'ha dati deve andare in galera. Però scusi Fiorito, è vero, Fiorito, scusi Claudio, l'avevo identificata con Fiorito. Il punto è molto semplice, sicuramente l'aumento dei soldi è stato deciso da altri e non da Fiorito, eccetera. Appunto, lui gestiva dei soldi, però le accuse sono di averli intascati per scopi personali, cioè, sia chiaro. Ma piuttosto che tenerli come lui, come la Margherita, la Di Rutelli fermi in banca, eccetera, chi ha fatto tutto? Ho capito, ma sono soldi. Scusi, Claudio, sono soldi anche. Lo stesso lui. Ma chi ha favorito l'economia su? Non scherzi su queste stronzate. Claudio, sono soldi anche suoi, le vorrei far presente. Cioè, suoi. Sì, ma è un discorso un po'. Ma no, ma sono soldi anche suoi. Se a lei non frega niente che c'è qualcuno che entra dentro casa sua, tipo con la mascherina da ladro, prende i soldi, le prende i soldi e se li spende per andare in vacanza in Sardegna in resort a 30.000 euro, eccetera, sono affari suoi, se gli piace così. Il Fiorito ha preso i soldi al ladro che è venuto a casa mia. No, ha preso i soldi, sono sempre soldi suoi, ma è uguale, sì, certo, è uguale. Certo. Ma chi gliel'ha dati? Ma non c'entra niente, uno glieli può anche... Ma sì, lei ha ragione, ne risponderà politicamente e se nel caso anche penalmente. Il problema è un altro, che sono soldi suoi. Lì, come Lusi, in galera, ma i soldi della Margherita che erano lì da anni, cosa ne facevano? Claudio, io sono d'accordo con lei, tant'è che voglio l'annullamento totale, la cancellazione totale del finanziamento pubblico. Claudio, allora, grazie. Se li avessero impiegati bene, ma che bene, ma perché sono troppi soldi, cancellare tutto. Anna Maria da Brescia, li davano in qualche sagra. Anna Maria da Brescia, ma che sagra, sì, peggio ancora, peggio mi sento. Anna Maria da Brescia, dica. Sono qui. Prego. Pronto, le rubo solo due secondi, perché veramente la telefonata del signor Francesco è una cosa che è indignante più di qualsiasi cosa. Posso dirglielo io, visto che lei non gliel'ha detto, che lui è uno stronzo? Guardi che non è che non gliel'ho detto, è che non c'è bisogno di dirglielo. È uno stronzo, perché è una persona che pensa che andare all'ospedale privato e pagarselo sia sufficiente, è uno stronzo. Io pago da 40 anni una contribuzione sanitaria e non ne ho mai usufruito, lo faccio per gli altri. Questo è essere un paese civile. E quel signore è un ladro, è un ladro, ma oltretutto senza il coraggio di delinquere. Perché se lui rapinasse una banca, potrebbe anche accettarlo, perché ci mette del suo, ci mette del coraggio, ci mette la volontà e rischia grosso, invece così non rischia niente. E giustificarsi solo perché in questo paese lo fanno tutti non va bene, è immorale. È questo il problema di questo paese, le persone che la pensano come questo signore. Va bene. Lei che lo deve dire. Ma non si preoccupi, gliel'abbiamo detto. Lei però gli ha dato dello stronzo e va bene anche questo. È uno stronzo. Va bene, ho capito. Grazie. Johnny da Siracusa, buonasera. Buonasera. Signor Johnny, come fa uno a chiamarsi Johnny a Siracusa? Mi spiega questa cosa qua. Giovanni. E perché Johnny? Giovanni, dico da Giovanni, sempre. Bene, Giovanni, perché mi hanno detto Johnny allora? Vabbè, comunque. Sul disguido tecnico, diciamo. Vabbè. Io chiamo per dare la mia solidarietà all'onorevole Scilipoti. Sì, la solidarietà per che cosa, scusi? Dico, la vostra satira mi sembra un po' troppo accanita, ecco. Può darsi che mi sbaglio, Dico, mi sembra un accanimento satirico, ecco. Accanimento satirico? Beh, diciamo che autosatira in questo caso, però, scusi, Giovanni. No, Uno che viene intervistato dalla televisione brasiliana come analista di politica internazionale per capire cosa succede in Italia con quel tipo di accento, con quel modo di parlare, più autosatira di quello non lo so che cosa c'è. Vabbè, ma se è siciliano io può utilizzare l'accento veneto. Ma che c'entra l'accento siciliano? È il brasiliano in questo caso, è il portoghese stile Oronzo Canà. Ma se lui conosce quel brasiliano, quel portoghese, non è una sua colpa. So, lei, ma non sto dicendo che deve essere impiccato per questo. È abbastanza chiaro che è un momento di autoironia eccezionale. Johnny, grazie. Salvatore da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Forse mi beccherò uno stronzo pure io, perché sono d'accordo con l'ascoltatore di prima. Però. Quale ascoltatore? Quello là che non paga le tasse. Ah, Francesco. Là. Sì. Io non ci credo ancora, secondo me non è vero. Non del tutto, però. Diciamo che... Io sono un lavoratore dipendente. Beh, dunque le tasse le paga? Comunque le pago le tasse. Però per quello che posso evadere, cerco di evadere. Mo le spiego, mi spiego meglio. Nel senso che io abito... Vabbè, la famosa illusione, diciamo, no? No, nel senso e che... E che cosa evade allora se è lavoratore dipendente, scusi? Mo le spiego. Sì, ma non c'è più tempo. Ci sentiamo domani, Enza da Latina. D'accordo. Voglio concludere con Enza da Latina. Scusi, Salvatore, Enza. Enza, vada, veloce. Veloce? Bisognava dire alla Santanchè che... Insomma, hanno avuto tanto tempo per poter pensare al 50% in meno per la politica. Brava, ha ragione lei, troppo tardi. Ci sentiamo domani alle 18:30. Se trovo la donna che le piace Fiappo, la faccio felice. Se trovo? La donna che piace Fiappo, sì. Molle, Fiacco. Molle, siamo a Trieste, sì, la faccio felice. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.